Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte seconda. Poi, di colpo, un'immagine fissa, confusa, che non riuscivo bene a decifrare. Non era una fotografia, perché c'erano dei movimenti appena percettibili nell'inquadratura. C'era la luce interna di un proiettore, doveva essere una ripresa notturna, qualcosa ripreso da molto vicino, tanto vicino, che non si riusciva a distinguere niente di preciso. Non c'era nessun commento, c'era solo quell'immagine silenziosa e confusa. Sentivo solo il frusciare delle dita di china che arrotolava lo spinello. Poi l'obiettivo della telecamera ha zoomato all'indietro e ha messo a fuoco una testa, la testa di un uomo. La testa era appoggiata su una macchia larga, rossa, e c'era una striscia rossa che usciva da un orecchio e scendeva giù per la guancia fino al colletto bianco della camicia. La telecamera ha zoomato ancora all'indietro e ha mostrato il corpo del carabiniere abbattuto davanti alla colonnina gialla di una pompa della benzina di fianco al corpo. Si vedeva una pistola, non so se era la sua o quella che l'aveva ucciso. Ho alzato il volume della televisione, che era abbassato. L'annunciatore diceva che il carabiniere era stato atteso sotto casa e ucciso con due colpi di calibro 9 nella testa. L'omicidio non era ancora stato rivendicato. Poi c'era stato un riepilogo delle forze dell'ordine cadute dall'inizio dell'anno. Immagini di carabinieri e poliziotti uccisi per strada o dietro i finestrini di automobili, un lungo elenco di nomi e di date. Le immagini dei caduti erano inframmezzate da altre immagini. La televisione commentava foto segnaletiche di latitanti, scene di arresti, di terroristi, di scontri a fuoco con terroristi, di uccisioni di terroristi, scene di processi con i terroristi, dentro i gabbioni, schierati, col pugno alzato e le facce minacciose. Il tono del commento era quello di un bollettino di guerra. China, che intanto si era acceso lo spinello, me l'ha passato e ha preso il telecomando e ha tolto il sonoro. Si vedono ancora due carabinieri in alta uniforme, giovani e impettiti, che portano una gigantesca corona di fiori attraversata da un grande nastro viola, con su scritto in grandi caratteri oro il governo. Poi China ha cambiato canale. Si è messa a passare da un canale all'altro, avanti e indietro. In quel periodo io avevo appena smesso di lavorare nella fabbrica di coloranti e io e China non avevamo più una casa fissa dove stare. Stavamo in giro, un po' qua, un po' di là, dai compagni che potevano ospitarci. Non eravamo mica i soli a vivere così. Anzi, allora in quel periodo eravamo un po' tutti costretti a fare nomadi per via del clima pesante che c'era. C'erano arresti a catena e perquisizioni quasi tutti i giorni, fatte anche così a casaccio alla gente più diversa del movimento, a tutti quelli che in qualche modo erano compagni o avevano a che fare coi compagni, quindi era un'abitudine non restare mai nello stesso posto per troppo tempo. Si cercava di dormire la notte nelle case di quei compagni che si ritenevano meno conosciuti, meno esposti, o meglio ancora nelle case di amici che non c'entravano niente, o nelle case di amici, le manifestazioni e le feste di piazza erano finite da un pezzo, il movimento era come un enorme fantasma, assente, ripiegato su se stesso, rintanato nei suoi ghetti. La scena adesso era occupata dallo stillicidio di azioni armate, clandestine, rivendicate da decine di sigle di organizzazioni combattenti, che si facevano concorrenza. La vita del movimento era finita, ma per i compagni non era finita. Non è che potevamo mettersi da parte a dire aspettiamo, stiamo a vedere, perché la repressione tutti erano coinvolti, non si facevano troppe distinzioni. E così stavamo lì, quella sera, io e China. su quel letto sconosciuto, coperto di giornali, di riviste, di vestiti, fumando uno spinello e guardando la televisione, che di solito non la guardavamo mai, e fuori si sentivano ogni tanto le sirene della polizia che passavano. Nessuno andava più in giro la sera. Anche in sede ci si vedeva solo di giorno e in giro si faceva attenzione quando ci si incontrava coi compagni. E poi c'era la storia di Scilla e dei suoi amici che ci preoccupava per loro e ci preoccupava anche per i riflessi che poteva avere su di noi. Mi ricordo che ne abbiamo parlato anche quella sera mentre China continuava a passare da un canale all'altro della televisione col telecomando. Prima di allora Scilla era la classica figura del servizio d'ordine, quello che in occasione degli scontri coi fascisti si era distinto come personaggio estremamente deciso, molto violento, molto aggressivo. Scilla era sempre stato dentro tutti gli scontri, si era battuto coi fascisti, anche da solo, e in questo modo si era pian piano costruito un mito, perché lì, in quella cittadina, la presenza dei fascisti era stata considerevole e anche lì, come altrove, permettevano di girare in centro con un abbigliamento che allora veniva etichettato di sinistra, di avere in mano un giornale di sinistra. Allora i fascisti provocavano e picchiavano la gente, conosciuti di sinistra o solo sospettati di essere di sinistra. Poi il movimento è riuscito a conquistare l'egemonia grazie a tipi come Scilla. Ma allora erano i fascisti che dominavano, e la polizia e la magistratura coprivano i fascisti, e all'interno di questo Scilla e quelli come lui, la corporazione, diciamo, militare del movimento, hanno costruito il loro prestigio in virtù di una necessità conosciuta da tutta la sinistra. La contrapposizione fisica al fascismo era una funzione riconosciuta come legittima e necessaria, e su questo ruolo di militante antifascista attivo Scilla ha potuto costruire il suo prestigio, che in futuro poi l'ha messo al riparo dai sospetti quando ha cominciato a svolgere il ruolo di confidente dei carabinieri. Scilla dimostrava sempre un atteggiamento di competitività fisica contro tutto e tutti, anche coi compagni, anche perché probabilmente sentiva di non poter competere su altri terreni, per cui lui aggrediva sempre, magari col pretesto di buttarla in gioco, ma era sempre un gioco pesante, sgradevole. Ecco, sì, sgradevole. E quelli che non riusciva a coinvolgere dentro questo meccanismo di competizione fisica erano quelli verso cui aveva un atteggiamento di soggezione, un po' viscido e forzato. In sostanza riproduceva all'interno del movimento gli stessi gradi di violenza che esprimeva verso il nemico. Si sentiva sempre in guerra, contro tutto e tutti, e in tutti vedeva nei nemici contro cui scaricare la sua violenza, e picchiava un compagno esattamente come picchiava un fascista. E così, anche all'interno del movimento, in sostanza, quelli come Scilla servivano, era un poliziotto interno, svolgeva una funzione magari sgradevole, ma considerata utile. Scilla e quelli come lui non hanno mai partecipato al dibattito interno del movimento, nelle riunioni, nelle assemblee stavano per lo più interessati solo a dove c'entrava la violenza, hanno semplicemente vissuto la fase di accelerazione dello scontro in termini meccanici e unicamente militari, di innalzamento dello scontro e di pratica della violenza contro lo Stato, come prima era stato contro i fascisti. Sono sempre stati fuori dalle lotte, nelle fabbriche, nel territorio, e poco a poco hanno cominciato a mimare comportamenti ideali clandestini, la pratica della pistoletta nascosta in cantina, eccetera. Poi, quando si è arrivati a quella riunione che ha deciso la rottura del nostro gruppo e che racconterò dopo, dopo quella riunione di lui e di quelli che hanno preso la sua strada, non si è saputo più niente, noi non li abbiamo più visti, non si è saputo più niente di lui, di Valeriana, di Corogno e di Celso, se non dai volantini che rivendicavano le azioni armate che loro hanno fatto. Hanno fatto una serie di iniziative armate fino a questo carabiniere, ma questo l'ho saputo solo dopo, quando ero già dentro. Non hanno fatto morti, hanno fatto rapine, attentati, qualche ferimento, fino a questo carabiniere. Ma allora, quando l'ho visto quella sera alla televisione con China, non abbiamo pensato minimamente che potevano entrarci loro. China fa scattare ancora il telecomando. Adesso sullo schermo si vede una pianura sconfinata. L'obiettivo zoom in avanti. Deve essere ripreso da un elicottero e si vede uno struzzo che corre velocissimo sulla pianura arida e piatta, come velocissima in linea retta la testa immobile, il corpo che sussulta ritmicamente, le gambe non si vedono tanto sono veloci, volta ogni tanto la testa e accelera, sempre più un'ombra bassa e lunga lo segue, veloce, guadagna terreno, lo struzzo volta la testa, l'ombra è a pochi metri, lo struzzo adesso corre a zigzag, guadagna qualche metro, ma dopo pochi secondi l'ombra è di nuovo vicinissima, lo struzzo corre verso il niente, con tutte le sue forze, l'ombra si solleva nell'aria e il ghepardo gli è sopra con un balzo. Formano un'unica ombra, immobile, l'elicottero gira, si vede solo il cielo grigio e il rumore delle pale. È successo dopo Natale, alla vigilia di Natale. Io avevo ricevuto un telegramma di China che mi avvisava che mi veniva a trovare lunedì per un colloquio. Questo telegramma mi era arrivato mentre si discuteva. Io ero in camerone con altri quattro compagni mentre si discuteva su come dividersi i compiti per cucinare il pranzo di Natale. Io facevo il risotto giallo e stavo facendo il brodo col dado sul fornello da campeggio. Una guardia mi ha chiamato, mi sono girato e ho visto appoggiato sul cancello il quadratino giallo. Ho pensato che era l'avvocato per il processo che era ormai vicino. Ma poi, quando ho visto che era di China, non ho pensato niente. Credo che ero molto contento perché era stata una sorpresa e ho pensato che China mi aveva fatto questa sorpresa di venirmi a trovare per Natale e ero molto contento. È buffo, ho pensato, perché tutti i Natali che abbiamo passato insieme credo che non ne abbiamo mai festeggiato uno una volta e adesso invece ero lì che preparavo il pranzo di Natale. Ho pensato ai capelli di China, ai suoi capelli lunghi, che quando ride se li butta davanti e si copre tutta la faccia coi suoi capelli neri lunghissimi, che quando si fanno i colloqui col vetro non potevo neanche toccarli, ma per fortuna qui adesso il colloquio si faceva senza vetri. Ma allora mi ricordo era una sofferenza che non ci potevamo neanche toccare una mano per un momento e questo ci deprimeva moltissimo, anche se eravamo contenti di vederci, ma non in quella maniera disumana, umiliante e deprimente, e certe volte mi veniva anche una rabbia furibonda prima del colloquio, sapendo che l'avrei vista lì dietro il vetro e che si doveva parlare attraverso il vetro, senza poterci toccare neanche con un dito. Mi veniva quella sensazione di odio che mi era già venuta delle altre volte, mi saliva il sangue alla testa, un desiderio violentissimo di uccidere tutte le guardie, qualcuno lì subito, immediatamente, con le mie mani. Se ci penso, mi sembra di sentirla quella sensazione ancora adesso, anche se è passato tutto questo tempo. Insomma, non me l'aspettavo quella visita perché China era venuta lì già la settimana scorsa. Era stata una visita molto bella, avevamo parlato di tante cose, fatto progetti, perché pensavo di uscire presto, subito dopo il processo, e così adesso ero commosso, pensando a quel viaggio pazzesco che doveva fare per me tutte le volte 1000 chilometri per venirmi a trovare e poi altri 1000 chilometri per tornare ogni volta, era pazzesco. Comunque quel colloquio non si è potuto più fare per tutto il casino che è successo dopo. È arrivato lunedì, anzi era domenica, era ora d'aria pomeridiana, la mattina. C'era stata una perquisizione, ma stranamente questa perquisizione, a differenza delle altre solite perquisizioni, era stata un po' più dura delle altre, e le guardie avevano fatto anche una cosa strana, avevano lasciato. Perché lì viaggia molto il simbolico, durante queste cose, durante le perquisizioni, e cose di questo genere è un problema di lanciarsi dei segni reciprocamente, e così il segno che avevano lasciato questa volta, strano da interpretare, cioè strano per me, che non avevo assolutamente sentore di quello che stava succedendo, mentre probabilmente le guardie il sentore ce l'avevano e come, perché annusavano il clima che c'era. Questo segno l'abbiamo trovato lì sul tavolo, quando siamo tornati nelle celle su dall'aria pomeridiana. Avevano lasciato su tutti i tavoli, in tutte le celle, in tutti i cameroni, avevano lasciato tutti quanti gli oggetti, tutti quelli che erano nelle scatole, le cose, i recipienti, i barattoli, le bottiglie, tutti quanti i contenitori, insomma, li avevano messi lì sul tavolo dalle scatole che contenevano detersivo a quelle del caffè o dello zucchero, alle bottiglie dell'olio e dello shampoo. Tutte quante le scatole, tutti quanti i recipienti, le bottiglie, le avevano lasciate lì sui tavoli come se volevano alludere a qualcosa. Io questa cosa l'ho realizzata solo dopo. All'inizio non ci ho fatto particolarmente caso. Mi ha sorpreso il fatto di trovare tutte queste cose lì sul tavolo, allineate, e poi quando dopo sono sceso all'aria nel pomeriggio, mi ha sorpreso anche il fatto di sapere che la stessa cosa era stata fatta anche in tutte le altre celle. Allora mi ricordo che il clima di quel pomeriggio all'aria era particolarmente teso, c'era un clima in cui l'aria si tagliava a fette, e quello che io ho pensato, anche basandomi su situazioni e esperienze precedenti che ho avuto, ho pensato che si trattava di uno scannamento, di qualcuno, perché c'era molta tensione e la si vedeva nell'aria, la si sentiva, da tante cose, da uno strano silenzio, che non era quello solito, e specialmente dagli sguardi, sguardi rapidi, veloci, che certi si scambiavano improvvisamente, mentre camminavano su e giù, e allora la cosa che ho immaginato è che doveva esserci in ballo un accoltellamento, o comunque un regolamento di qualche storia, tra qualcuno, e me lo aspettavo che succedeva da un momento all'altro. Una cosa del genere che avevo già visto altre volte, come una volta poco dopo che mi avevano arrestato e che mi aveva fatto molta impressione allora. Quella volta era successo che si passeggiava normalmente all'aria e a un certo punto tre o quattro comuni, perché facevamo l'aria insieme ai detenuti comuni, questi comuni si sono avvicinati da dietro le spalle a un altro comune, si sono avvicinati a uno di quelli che passeggiava lì come loro, e da dietro gli hanno messo intorno al collo un laccio, un cappio fatto col fil di ferro. Gli hanno messo questo laccio intorno al collo da dietro, e in due gli hanno preso le braccia e gli hanno stretto le braccia per tenerlo fermo, e hanno tirato il fil di ferro. Si usa questo sistema per immobilizzare uno durante un accoltellamento, perché non è così facile come sembra accoltellare uno, a meno che la coltellata arrivi così bene in un punto vitale per cui questo schianta, ma capita che uno non muore neanche dopo 20-30 coltellate. Non è facile accoltellare uno, non è facile come può sembrare, cioè è facile accoltellarlo, ma non è facile ucciderlo, perché uno, tra l'altro, non è che prende le coltellate e non tenta di reagire. Uno reagisce, si divincola, fa casino, si sbatte qua e là. È molto difficile tenerlo fermo, insomma, e uno dei metodi è appunto quello di mettergli prima un laccio intorno alla gola, tirarlo finché questo perde per metà i sensi, perché è quasi soffocato, e nel frattempo accoltellarlo con dei colpi dal basso verso l'alto, perché le coltellate dall'alto verso il basso sono meno efficaci. Bisogna tirare le coltellate dal basso verso l'alto e bisogna soprattutto cercare di mirare in un punto vitale, possibilmente qua, sotto lo sterno. E allora gli hanno messo questo laccio intorno al collo e gli altri gli hanno preso le braccia e quello dietro ha cominciato a tirare il laccio di fil di ferro, però il fil di ferro si è rotto. O è più probabile che il cappio era fatto male. Fatto sta che si è spaccato, si è allentato, o non so, fatto sta, non sono riusciti a stringerglielo attorno al collo. La reazione che quello ha avuto è stata ovviamente di terrore, perché ha capito subito quali erano le intenzioni di questi, che tentavano di mettergli il fil di ferro intorno al collo. E questi, invece, dopo un primo momento di imbarazzo, hanno reagito scherzando, anche perché non avevano ancora tirato fuori i coltelli, non si erano ancora visti i coltelli. Allora questi scherzavano, gli davano le pacche sulle spalle, dicendogli «Hai preso paura, eh?», come se si trattava di uno scherzo. Però quello non ha creduto che si trattava di uno scherzo, non c'è mica cascato, anche perché non sono mica scherzi che si fanno questi in prigione. Se uno ti fa uno scherzo così, poi tu lo ammazzi davvero, perché non sono scherzi da fare questi. Allora il tipo si è avvicinato al cancello dell'aria e ha cominciato a gridare per chiamare le guardie, per farlo uscire. A quel punto questi, che dovevano farselo, hanno capito che o gli saltavano addosso subito oppure le guardie arrivavano e tutto diventava più difficile. E se poi quello faceva in tempo a uscire dal cancello, non lo beccavano più, perché poi chiaramente sarebbe stato trasferito o si buttava alle celle di isolamento. Comunque, di certo, non si faceva più vedere lì. Allora, proprio mentre le guardie accorrevano per vedere perché quello urlava, gli sono saltati addosso in 4 o 5, con dei coltelli, con delle lame e dei punteruoli, e hanno cominciato a colpirlo in maniera un po' confusa. E quello evidentemente reagiva, non è che prendeva le coltellate e stava lì fermo, dava calci, cercava di ripararsi, di svincolarsi, e ha preso un bel numero di coltellate senza cadere per terra, e nel frattempo urlava, e le guardie accorrevano nei corridoi dell'aria, vedevano la scena, però non entravano nel cortile. C'era un brigadiere che gridava da dietro il cancello: «Basta, basta, è stata una scena che è durata parecchi secondi. Gli altri stavano in fondo al muro. Eravamo lì tutti in fondo che guardavamo immobili. È stata una scena che è durata parecchi secondi». Urlava, urlava come un impazzito. Poi è stato buttato per terra. Più che buttato per terra, è caduto sulle ginocchia. E in quel momento gli sono arrivati 2 o 3 colpi di punteruolo dall'alto verso il basso, sulla testa. Proprio così, col punteruolo, giù, sulla testa. O nel momento in cui ha girato la testa, un punteruolo, un altro colpo di punteruolo. Gli si è infilato in un occhio, proprio un punteruolo. Gli si è proprio infilato in un occhio, un colpo di punteruolo dentro l'occhio. E questo urlava, veramente, in modo incredibile. Poi è caduto per terra. Poi, allora, questi, quando è caduto per terra, sono andati avanti a dargli le coltellate, cercando di colpirlo al cuore, perché insistevano con colpi al torace, ma gli davano anche colpi al collo, gli tentavano di squarciare il collo. Il sangue, quello era per terra, con il sangue che gli zampillava fuori da tutti quanti i buchi, da tutte le ferite, da tutti i tagli che aveva, dalla testa, da questo occhio, con sangue che gli usciva dappertutto. Era un lago di sangue, era una pozza di sangue, che sarà stata larga 1,5 metri veramente. E non si muoveva più, con questo occhio che era una macchia rossa, con l'occhio mezzo fuori e l'altro occhio sbarrato, e sembrava morto, e non si muoveva più, sembrava morto, non muoveva neanche più un dito. Allora questi hanno smesso, e sono tornati indietro, dove c'erano tutti gli altri, in fondo al muro del cortile, e le guardie hanno aperto un po' il cancello, perché quello, fra l'altro, era proprio a 1 metro dal cancello. Hanno preso quello per i piedi e l'hanno trascinato fuori. Intanto però, lì all'aria, il tempo passava e non succedeva niente. E quando è arrivato il momento di salire, perché noi in quell'occasione eravamo all'aria della pallavolo, però nessuno giocava a pallavolo, tutti passeggiavano su e giù, scambiandosi quegli sguardi veloci e ogni tanto poche parole sottovoce. E il tempo passava e non succedeva niente. Io mi aspettavo un accoltellamento, ma non è successo niente, tanto è vero che quando è arrivato il momento che le guardie sono arrivate per ritirare la gente nelle celle, la gente ha cominciato a salire su normalmente, tranquillamente. E così tutti quanti sono saliti su, e io sono salito tra gli ultimi, conversando con un altro compagno, e non mi immaginavo proprio assolutamente che proprio allora stava succedendo un puttanaio del genere. Sono arrivato in cella e erano passati pochissimi minuti da quando ero tornato in cella, quando ho sentito delle urla provenire dalla rotonda. Devo spiegare cos'è la rotonda? La sezione speciale del carcere dove eravamo era una palazzina a pianta rettangolare, una palazzina di 3 piani, pian terreno, primo piano e secondo piano. E ogni piano era diviso in 2 bracci. Al centro di questi 2 bracci, a tutti i piani, c'erano 2 cancelli e in mezzo tra i 2 cancelli c'era uno spazio che era la rotonda. Appunto, la rotonda, dove arrivavano le scale e di lì si smistava la gente in un braccio o nell'altro braccio, il braccio destro da una parte e il braccio sinistro dall'altra. Io ero al braccio sinistro dell'ultimo piano, cioè del secondo piano. Al primo piano c'erano tutti i comuni e al pian terreno c'erano i cosiddetti lavoranti, che sono dei detenuti che svolgono nei corridoi mansioni di distribuzione del cibo e fanno la pulizia nei corridoi, eccetera. L'ultimo piano comprende invece tutti i politici. Eravamo 60 politici e fra l'altro bisogna notare che negli ultimi giorni erano arrivati anche la stragrande maggioranza dei detenuti tra comuni e politici che avevano fatto una rivolta molto dura in un altro carcere speciale e erano stati poi trasferiti lì. Era stata una rivolta molto dura. C'erano stati 2 morti. Erano stati uccisi 2 detenuti considerati degli infami. E era stato distrutto praticamente tutto il carcere. E così adesso, lì da noi, il piano dei politici era strapieno, non c'era più un posto. Eravamo in 60 e lì era tutto strapieno. Io ero allora in cella con altri 4 compagni. E ho sentito delle urla arrivare dalla rotonda, delle urla molto concitate, e ho visto le guardie che passeggiavano nel corridoio del nostro braccio. In un primo momento le ho viste correre verso la rotonda, in fondo al braccio e nelle celle. Tutti quanti si sono affacciati dai cancelli che danno sui corridoi, e dopo un momento le guardie urlando sono tornate indietro di corsa e hanno cominciato a chiudere le porte blindate, perché le celle hanno un cancello e hanno anche davanti una porta blindata. E proprio grazie alle lotte che c'erano state in quel carcere, noi avevamo conquistato di tenere aperte per tutta la giornata le porte blindate e di chiuderle solo alle 11 di sera fino alle 7 del mattino. Quindi quella era un'ora pomeridiana, le porte blindate erano aperte e così la reazione che le guardie hanno avuto appena hanno capito che era in atto il sequestro delle guardie che si trovavano in rotonda da parte di 2 compagni, perché allora si saliva a 2 per volta, cosa che è stata poi abolita. E così, quando 2 compagni sono arrivati su in rotonda, hanno tirato fuori i coltelli che avevano con loro e hanno sequestrato le guardie. Le hanno sequestrate e con la minaccia di ucciderle si sono fatti aprire, anzi, dato che le guardie avevano con loro le chiavi dei cancelli, gliele hanno prese e hanno aperto loro i 2 cancelli che davano sui 2 bracci, il braccio di sinistra da una parte e il braccio di destra dall'altra. E così le guardie che si trovavano nei 2 bracci si sono trovate la via chiusa, si sono trovate chiuse in trappola, perché da una parte del corridoio c'era il cancello della rotonda, dove si trovavano i compagni che avevano catturato le guardie, e dall'altra parte del corridoio c'erano i finestroni in fondo al corridoio, e così le guardie si trovavano senza via d'uscita, erano terrorizzati, anche perché non sapevano come le cose si sarebbero sviluppate. Quindi la cosa che hanno fatto istintivamente, perché è la cosa che probabilmente sta scritta nel regolamento delle guardie, è che in questi casi si devono chiudere le blindate. Quindi allora tutto quello che gli è venuto in mente di fare e tutto quello che hanno fatto è stato di tentare di chiudere le blindate. E allora alcune blindate, anzi una sola blindata, sono riusciti a chiuderla. Altre blindate non le hanno chiuse perché nella confusione, nella paura, non hanno fatto in tempo a chiuderle. Altre non sono riuscite a chiuderle perché i compagni che erano nelle celle hanno messo immediatamente di traverso tra il cancello e la blindata delle scope, dei manici di scopa, tra il cancello e la blindata, impedendo che le blindate venivano chiuse. Tu ti devi immaginare che questa cosa si è svolta in frazioni di secondo, quindi questi sono riusciti praticamente a chiudere una sola blindata. Altre hanno tentato di chiuderle, o si sono dimenticati, o non hanno fatto in tempo a chiuderle. Fatto sta che tutte le guardie si sono arrese immediatamente. Tutti si sono arresi nel terrore più assoluto. Ma nel frattempo, mentre questi due compagni prendevano le guardie in rotonda, prendevano tre o quattro guardie, non so quante. Nel frattempo era successo che nel braccio di destra, io ero al sinistro, nel braccio di destra in un camerone, i compagni avevano segato le sbarre. C'erano 8 compagni in quel camerone, perché tu allora avevi la possibilità di uscire dalla tua cella all'ora di pranzo per cucinare e mangiare insieme. Questa era un'altra cosa che avevamo conquistato con le lotte che c'erano state negli ultimi mesi in quel carcere, e avevi la possibilità di riunirti in un camerone per mangiare insieme a altri compagni, e allora a quel tempo nei cameroni potevamo stare insieme fino a un massimo di 8. Avevano segato le sbarre del cancello e nel momento in cui questi due compagni hanno sequestrato le due guardie in rotonda, quelli che le avevano già segate prima e che aspettavano quel momento hanno tolto le sbarre del camerone e sono usciti in 8, quindi praticamente erano in 10 detenuti che erano fuori, gli 8 del camerone e i 2 in rotonda. E così, insomma, hanno sequestrato anche tutte le guardie che stavano nel corridoio del secondo piano. Tutto questo ovviamente io l'ho saputo poi, dopo che io ero chiuso in cella, ero nel braccio sinistro e non ho visto niente. Sentivamo solo delle grandi urla, sentivamo urlare e sentivamo solo tutto questo casino. Le guardie che cercavano di chiudere le blindate, che correvano su e giù, le urla però è stato veramente tutto un attimo. Quello che è successo e che si è saputo poi dopo, o almeno in parte, perché non è che poi tutto si può sempre raccontare di queste storie, è stato che velocissimamente i compagni che avevano sequestrato le guardie sono scesi giù con le chiavi che avevano preso alle guardie, hanno aperto il cancello che dava sulle scale e sono scesi giù al primo piano e hanno sequestrato tutte le guardie che stavano di sotto e così hanno aperto i due bracci del primo piano. E allora hanno cominciato ad aprire le celle ai comuni e così si sono riversati fuori dalle celle tutti quanti i comuni. E allora sono saliti anche loro al secondo piano e così hanno cominciato ad aprire anche le celle di tutti quanti noi. Giù al pian terreno non sono scesi perché non era difendibile come i piani superiori e lì i lavoranti sono rimasti poi per tutto il tempo della rivolta imbottigliati nel loro braccio fra i due piani in rivolta e le guardie fuori. Io a questo punto ho visto della gente mascherata che sono arrivati nel mio braccio, sono arrivati davanti alla mia cella e hanno aperto tutte le celle del braccio sinistro. Hanno aperto anche la mia cella e allora c'era una grande confusione e le indicazioni che alcuni davano sono state: c'è una rivolta, abbiamo sequestrato le guardie, stiamo calmi, mettere dei materassi sulle finestre perché è probabile che sparino dei candelotti dentro le celle. E allora tutti hanno messo i materassi sulle finestre e poi tutti quanti ci siamo riversati fuori nel corridoio. Proprio nel momento in cui sono uscito dalla mia cella, sul corridoio ho sentito un grandissimo boato, una botta incredibile. Era successo che un compagno, che era rimasto al primo piano di guardia, aveva visto arrivare le guardie al pian terreno, che tentavano di salire, le guardie in forza già organizzate. Allora, questo aveva gettato alcuni grammi di plastico, però a carica libera, cioè non compresso, contro un contenitore, ma solamente con il detonatore e la miccia. Ha gettato questo plastico a scopo puramente deterrente. Infatti mi pare che non ci sono stati feriti, non so bene, ma solo che in questo spazio chiuso ha fatto un enorme boato. Le guardie allora sono scappate via, tutte, e da quel momento ha preso avvio la rivolta. Libri ribelli. Ha ridotto già. libri ribelli.